giocare in Carmen in San Bragno, Alessandria. Carmen San Bragno. Buongiorno a tutti. Leggevo prima anche il titolo del Rinascimento nella storia, mi viene solo in mente, visto che siamo anche vicino alla Svizzera, di un articolo che era uscito qualche tempo fa, scritto da un americano, dove diceva che si parlava sempre un po' male dell'Italia, perché tante cose che non vanno, eccetera, e poi si parla sempre bene della Svizzera, e però questo diceva, però vogliamo mettere in confronto l'Italia, nonostante tutte le sue difficoltà, le sue inventive, ha fatto il Rinascimento. La Svizzera in 400 anni, che non ce l'ho con la Svizzera, e tra l'altro io sono dell'anno, e quindi gli extracomunitari devo difenderli anche, no, non ce l'ho con la Svizzera, ma diceva, mentre l'Italia ha fatto il Rinascimento, loro hanno fatto degli orologi a cucù. Questo per dire che è importante questo titolo, no, che la segreteria ha voluto inventare, perché si dice che il Medioevo sia stato un anno scuro, anni oscuri, io non penso che sono stati, ma c'è stato forse difficoltà come abbiamo attraversato adesso, ma poi c'è il Rinascimento, e quindi questo titolo dà la possibilità di avere fiducia e di avere prospettive, specialmente per noi che siamo, io ormai sono entrato anche in pensione, quindi mi riferisco a essere anziano, no? Silenzio! Ad essere anziano, quindi specialmente per noi che abbiamo portato avanti in questi anni questi nostri valori della CIS, che sono valori importanti, da stamattina sentivo diversi interventi, quanto sia importante per molti, anche dal filmato che c'era stato, essere CIS. E quindi questi nostri valori dobbiamo farli passare, perché la nostra idea di partecipazione nel sindacato, ma anche nella società, anche attraverso il sindacato, deve essere anche patrimonio per i nuovi, per i giovani, e anche per i nuovi giovani pensionati, quelli che entreranno in pensione. Quindi ritornare ai valori, prima di tutti i nostri, anche sulla moralità, è già stato detto, io non voglio giudicare, però le cose che abbiamo vissuto in CIS in queste estate passate sono stati molto pesanti, alcune disdette le abbiamo prese, molta difficoltà a parlare con la gente, no? Perché c'erano venute alcune cose che ci hanno preso abbastanza alla sprovvista, cioè non pensavamo che poteva succedere, ma non voglio giudicare. Altre cose invece che è successo, come posso dire, specialmente fino a qualche tempo fa, molte cose ormai cadevano molto dall'alto all'interno della CIS, non è che partecipavi, decidevi, eccetera, ma che arrivavano le cose già fatte e tu dovevi accettare, no? E poi abbiamo visto che ai primi riscontri, per esempio la FAI e la FILCA dovevano fare unirsi, invece subito saltato, no? Cioè immediatamente saltato, perché forse non era stato costruito dal tempo. E anche nei pensionati, io non ero appena arrivato in pensionati, so che ad aprile c'era stato il congresso nazionale con la votazione di UDA, a settembre già non era più segretario generale dei pensionati, quindi qualcosa non aveva funzionato. Ripartire dai valori, l'ha già detto qualcuno prima. Allora, tra l'altro, l'ho già detto nell'altro congresso, dovremmo sempre più diventare un movimento. Io vengo da Cuneo, dalla provincia di Cuneo, e vedo che c'è uno sforzo da parte, per esempio, dell'Unione, di andare nelle scuole, di parlare di sindacato, di parlare di tante cose. Ecco, quindi diventare sempre più un movimento, perché possiamo attirare anche nuove figure, anche giovani. Portavo sempre l'esempio, tempi indietro, della Coldiretti, che è passata dalla Bonomiana, che era tutta un'organizzazione abbastanza, come posso dire, chiusa, tutte queste cose qua, è diventata adesso invece un punto di riferimento importante, sono sempre padroni, eccetera, però un punto di riferimento col chilometro zero, con i mercati rionali, con la collaborazione anche con Slow Food, che sembrano così lontane, cioè per dire dobbiamo essere capaci veramente a innovare. E allora, noi penso che per fare movimento, per andare avanti, bisogna fare anche iscritti. Non voglio entrare nel merito delle varie politiche, eccetera, perché già è stato detto nella relazione, ma poi arriviamo tutti da tanti congressi, quindi sono già state dette molte cose. No, però voglio dire che c'è bisogno comunque di riportare di nuovo gente, di iscrivere di nuovo gente alla CIS. No, abbiamo sentito stamattina i dati. io penso anche che un po' di dati siano, perché finalmente si è fatto anche un pochettino di pulizia. So che se c'erano due tessere iscritte, cioè non so, due pensioni, quindi contavano, come l'hanno spiegato, contavano due iscritti, invece adesso hanno voluto fare giustamente pulizia, è un iscritto solo, non perché sa due pensioni, una di reversibilità, contiamo. Quindi ci sono anche questi dati per essere un pochettino più positivo. Ma noi siamo partiti con un esperimento, per esempio nella nostra ASL di Alba, no, dove attraverso l'INAS facciamo una presenza dove immediatamente a quelli che si stanno avvicinando alla pensione li facciamo, siamo partiti da due mesi, li facciamo subito i conti, no? Immediatamente diciamo, guarda, tu devi fare questo, quest'altro, può darsi che puoi entrare con l'APE se viene avanti, anche qui non si sa niente, può darsi che sei un lavoratore precoce, quindi come OS, lavoro gravoso, eccetera, potresti anche andare in pensione. Quindi accompagnare chi deve andare in pensione, accompagnarlo poco per volta, fare questo sforzo. Però noi è un esperimento, tra l'altro viene la direttrice dell'INAS, perché l'operatrice di Alba non avrebbe il tempo, l'ha detto prima quello che ha parlato prima di noi, questi servizi hanno delle grosse lacune, ma non do causa al personale, anche se dico, spesse volte con qualcuno, non voglio generalizzare, che però quelli che fanno i servizi, gli operatori dei servizi, sono sindacalisti che fanno un altro tipo di mestiere, forse non andranno davanti alle fabbriche, però sono sempre sindacalisti, cioè non sono solo, che ne so io, impiegati con certe ore precise, eccetera, ma devono essere, entrare in questa logica anche per quanto riguarda gli iscritti. Però è già stato detto prima, i servizi devono fare riferimento alle situazioni locali e quindi alle UST, alle segreterie, perché sono loro che conoscono la situazione di dove c'è più bisogno nel territorio. È capitato questo, ma non ce l'ho con nessuno. E io un giorno stavo andando al Consiglio Generale della FNP di Cuneo, mi telefona quella del CAP dicendo quell'ISEE che mi hai chiesto per quell'iscritto è pronto. E io ho detto, guarda, sto andando al Consiglio Generale, più tardi ritorno e vengo a prenderlo. Sono ritornato, quella persona non c'era più, nel mentre era stata, nessuno sa il perché. Io posso anche pensare male, non credo, ma nessuno sa il perché. Quindi il territorio non ha vissuto questo momento. Quindi è importante legare, poi sentivo dire prima da Scarsi che ci sarà una riunione, perché né l'INAS, né il CAF, né altri servizi sono una cosa avulsa o una cosa estranea alla CISL, ma devono essere parte integrante della CISL anche nelle decisioni, perché altrimenti diventa veramente, veramente difficile. C'è, manca personale, c'è lacuna. Allora io, per far veloce, penso che sia importante anche come FNP, visto che siamo anche quelli più interessati eventualmente per nuovi iscritti eccetera, abbiamo necessità anche di difendere il vecchio iscritto, perché fai degli sforzi per arrivare all'iscritto ma tante volte ne perdi immediatamente perché il servizio non ti dà la risposta che tu ti aspettavi, non che tu ti aspettavi. E quindi penso che sia che bisognerà fare uno sforzo ulteriore, forse risparmiando anche su altre cose, perché la FNP vada anche diciamo così, assumere dei giovani che possono fare un lavoro di patronato e di CAF proprio per la FNP. Noi abbiamo un'esperienza sempre nell'Albese dove la FAI, che fa tante disoccupazioni, ha assunto una persona come INAS, però l'ha assunta come FAI che fa le disoccupazioni, perché altrimenti l'INAS non ce la farebbe. Anche noi, per dare le risposte nei recapiti, tante volte non basta la buona volontà dell'operatore, del pensionato, ma c'è bisogno di qualcuno più qualificato, che sappia dare senza fare anche errori. Quindi una proposta è anche questa, come FNP, di andare veramente, e così diamo anche dal lavoro a giorni, ma dare ad assumere delle persone che possono fare questo incarico. E poi un'altra cosa che ho già detto al congresso della FNP di Cuneo, abbiamo tante case di riposo, abbiamo avuto anche tanti problemi, abbiamo visto purtroppo che ogni tanto in televisione esce che in qualche casa di riposo gli operatori non si comportano bene, e questo sono da condannare fino all'ultimo, anche se poi ci possono essere i problemi, sappiamo che quando diventiamo più anziani diventiamo anche pretendiamo anche di più, abbiamo tutti i nostri difetti, eccetera, però assolutamente non si può difendere questo personale. Però questo non vuol dire che davanti a tre persone che si comportino male non ci siano invece migliaia di persone che lavorano, che sono le OSS, che sono le badanti, che sono tutto questo personale. Ebbene, è già stato detto prima, ma voglio ripeterlo, ci sono sempre meno soldi per le convenzioni, ci sono sempre meno soldi per il riconoscimento di qualcuno che non è più autosufficiente. Molte persone, io provengo da quel settore lì, dalla categoria della sanità, quindi lo conosco abbastanza, molte persone ormai entrano in casa di riposo che sono considerate autosufficienti, invece non lo sono più, però non hanno, come posso dire, l'aiuto da parte della regione, da parte delle ASP essere considerate in quel modo. E quindi e per le famiglie diventa difficile sostenere chi va a dargli da mangiare, tutte queste cose, quindi è un costo molto sempre più alto. E allora c'è una ricorsa al ribasso, no, negli appalti c'è una ricorsa al ribasso a pagare anche di meno lo stesso lavoratore. Quindi io chiedo veramente che venga anche accennato, non so, nella risoluzione, per esempio noi abbiamo delle case di riposo che sono enti locali ancora, che non assumono più come enti locali perché non possono più assumere, anche perché sarebbero dei costi enormi. Se io faccio una legge 104, se sono ente locale la pago come ente, se faccio una maternità la pago come ente perché non sono appoggiato all'INPS, e quindi non riesco a fare questo passo di assunzione nuovo. E quindi cosa faccio? Mi rivolgo alle cooperative, che le cooperative vuol dire pagare meno il personale, vuol dire, poi sono false, molte di queste sono false cooperative, e vuol dire poi cosa, avere anche del personale che corre, che però non è contento, che è mal pagato, che ha dei grossi problemi, e tante volte proprio anche per il carico di lavoro che è troppo pesante, perché c'è sempre una rincorsa al risparmio da parte degli enti, si ripercuote anche sugli utenti e tante e che quindi sono anche i nostri pensionati, che noi, essendo sindacato confederale, non è che difendiamo solo il pensionato che sta bene ancora, ma difendiamo anche quelli che fra qualche anno come me potrà andare in casa di riposo. Però, e devo dirlo, e su questo aspetto, molti consulenti delle case di riposo ci dicono: ma come, voi ci venite a dire che non possiamo andare a prendere cooperative eccetera perché c'è un ribasso, però il vostro ospedale, e io parlo della zona Cuneo ma non solo Cuneo, fa riferimento ad Amos, che è una società, no, che è quasi legalizzata ad assumere personale al posto dell'ospedale, ma da altre parti sono cooperative. E allora mi fanno questo riferimento tra Amos: ma come, voi ad Amos, voi permettete agli ospedali di assumere attraverso Amos, che è una società che tante volte, non tanto per il personale infermieristico ma per gli impiegati, nonostante diano risposte sanitarie, adopera il contratto dei multiservizi delle pulizie. Cioè personale che ha contatto con altri che sono ospedalieri, questo qua ha un contratto molto diverso. Quindi anche qui bisogna incominciare a dire le cose come sindacato, come devono, e dare anche le responsabilità alla regione che fa finta di niente. E allora, se parliamo di badanti e di OSS, andiamo a finire su un altro aspetto che riguarda... finisco allora. No, che riguarda solo anche gli stranieri. Io dicevo prima che sono presidente dell'ANOR di Cuneo, è un'associazione che voi tutti sicuramente conoscete, secondo me importante. Abbiamo una grossa presenza di stranieri in Piemonte che lavorano in certi settori che altri non lavorano. Per esempio sono i macedoni che sono nella terra, o quelli che bucano le buche come i siti, eccetera. Quindi, e voglio veramente finire, io penso che bisogna anche fare un accordo, secondo me, tra ANOLF e ANTEAS, perché abbiamo la possibilità di sviluppare anche un servizio verso questa gente, che non si può far finta non ci sono, ci sono, e hanno dei problemi eccetera, però si può anche fare un servizio verso queste persone. Per esempio, lo dicevo già anche al nostro congresso, l'ANTEAS potrebbe in certi posti con dei professori, con dei maestri in pensione, mettere in piedi dei servizi di italiano, no? Per insegnare l'italiano, potrebbe far conoscere i nostri monumenti a queste persone che arrivano da paesi stranieri. In questo modo ci sarebbe più integrazione. ringrazio ancora la segreteria e finisco sia per il lavoro fatto e anche per quel giornalino che arriva online, che è molto utile, che è molto utile anche perché è molto informale e molto, come posso dire, puntuale. Grazie. Grazie. Grazie Roger.